9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 28 di novembre. Un augurio a chi oggi festeggia. Mi dicono che sia San Giovanni della Marca, sì, San Giacomo della Marca, per carità, ho sbagliato, quindi aiuto, un augurio a Giacomo e a chi festeggia oggi San Giacomo della Marca. Devo dirvi che trovo che tra tutti i commenti delle primarie del PD, quello sulla stampa di oggi che più mi ha fatto ridere è sul Fatto Quotidiano, se non mi ricordo male, un'intervista a Carlo Verdone, era sul Fatto Quotidiano, comunque insomma, o è sul Fatto Quotidiano o è altrove, ma credo che sia lì. Ah sì, eccolo qua. Non vado a votare per le primarie, non ho certificato medico e una presa per i fondelli di queste regole che non si riesce a capire. Si può andare a iscriversi per il secondo turno delle primarie del PD oppure no? Tutti i bersaniani dicono no, perché se venite noi vi chiediamo anche ogni minuto del primo giorno, la prima domenica, perché non siete venuti, portate le giustificazioni. Allora Carlo Verdone la mette a ridere, dice: sabato mi è caduta la motocicletta su un piede, ma ora che faccio? Vado dal dottore per la giustificazione o mi calo i pantaloni? Ecco, trovo che lo scontro animato dai bersaniani, che hanno una fottuta paura che qualcuno vada a votare per Renzi, la dica lunga sul fatto che sono primarie che l'oligarchia del partito concepisce chiuse, chiuse, cioè la società civile non può dire che vuole votare per Renzi, e quindi da questo punto di vista c'è di che riflettere. Dunque, ieri abbiamo avuto un altro sussulto di una mezza verità uscita dalla bocca di Monti, che ci sta abituando a questo suo felpato avvicinarsi alle elezioni, per il quale oramai la strategia è quella di dire una cosa e mezz'ora dopo, di fronte al fatto che fa infiammare la scena politica, dire che non l'ha detta oppure si è sbagliato oppure hanno capito male i giornali. È una strategia deliberata, è un po' da vecchio politicante, non mi piace per niente, mi delude molto questo modo di fare di Monti, perché Monti, secondo me, per l'autorevolezza che ha, se decide di parlare, e lui è una persona che di sicuro non si lascia sfuggire di bocca le parole, cioè non è un teatrante come un Berlusconi fallito qualunque, insomma, è una persona di rilievo, avrei preferito che il suo atteggiamento di avvicinamento alla politica avvenisse affrontando apertamente gli argomenti. Se il Monti decide di dire che è favorevole alla patrimoniale, come ha detto, io me lo ricordo, lo ripeterò sempre, ricordatevi Monti per la patrimoniale, per la patrimoniale, per la patrimoniale, per la patrimoniale, pagate, pagate, pagate, con Monti bis voi pagate la patrimoniale, perché ve l'ha detto, ecco, per essere chiari, e non è una cosetta che poi dice l'ho smentita mezz'ora dopo, perché l'hai detta. Allora ieri ha detto un'altra cosa di quelle, secondo me, importanti, molto importanti, perché ha richiamato l'attenzione sul fatto che il servizio sanitario è a rischio, perché ha giustamente, secondo me, i numeri alla mano in questo caso, richiamato l'attenzione sul fatto che se uno va a vedere i numeri della sanità in prospettiva, per la composizione demografica della popolazione, l'invecchiamento, il tipo di patologie croniche collegate all'invecchiamento, eccetera, eccetera, questa nostra curva demografica che esprime un paese senza alcuna fiducia in se stessa, i costi della sanità saliranno e quindi ci sarà bisogno di intervento. Ha ragione o ha torto? Questa volta Monti ha assolutamente ragione quando parla di rischio sostenibilità. Naturalmente la politica è insorta, ma ha sbagliato. In questo caso, secondo me, la marcia indietro di Mario Monti è sbagliata, perché il problema è che quando si affrontano temi di questo genere, che bisognerebbe porre al centro dell'agenda delle prossime elezioni con serietà, è inutile farlo con questa strategia del hit and run, colpisci e fuggi. Il colpisci e fuggi è una roba da vecchi democristiani, per dire, ve l'avevo detto io, come faceva il vecchio Andreotti. È peccato che questa non sia la strategia giusta per dire che poi si è fatto tutto il necessario per affrontare i temi del paese. Altra pillola: Banca d'Italia conferma che stiamo andando a un calo del reddito delle famiglie italiane più vicino al meno 3% che al meno 2,5%. Quindi, come vedete, chi accusa il sottoscritto o gli amici di Fermare il Declino poi di essere dei pessimisti, chi mi chiede perché tieni sempre Dors, eccetera, eccetera, purtroppo i numeri che abbiamo di fronte a noi, la gravità della crisi che è in corso all'interno della società e dell'economia italiana è tale da non consentire infondati ottimismi. E quindi io concepisco il nostro richiamo alla serietà dei numeri e come un monito che in un oceano di chiacchiere tenta di continuare a guardare i numeri. Oggi ci occupiamo nella puntata di una vicenda che secondo me è la sintesi drammatica dei problemi di un paese che non sa affrontare le sue questioni di fondo. Torniamo infatti a occuparci dell'Ilva di Taranto e prima di presentarvi gli ospiti lasciate che vi dica che qui adesso l'ipotesi è diventata quella di un decreto del governo che riprenda tutto ciò che si credeva dopo i primi interventi della magistratura mesi fa che fosse nella possibilità del governo fare con l'autorizzazione integrale ambientale, integrata ambientale, l'AIA. Però questa strada il governo quando l'ha imboccata è fallita, perché poi sono arrivati i nuovi provvedimenti cautelari della magistratura l'altro ieri, i nuovi arresti collegati all'inchiesta parallela nella quale sono imputati politici locali e ex dirigenti dell'azienda di mettersi d'accordo ancora una volta del tutto impropriamente commettendo reato per instradare le verifiche tecniche sulle emissioni e sulle bonifiche dello stabilimento, e soprattutto è venuto il sequestro di queste migliaia di tonnellate di acciaio già realizzato in Lastre Coils a Taranto, per il quale l'azienda, come sapete, ha disposto a quel punto la messa in libertà dei 5.000 dipendenti collegati al ciclo della produzione a freddo a Taranto, il che significa poi blocco entro a questo punto 2 giorni, se le cose restano così, di Genova, Novi Ligure, Marghera, Patrica, Racconigi. Per capirci, stiamo parlando di un impatto, la chiusura di Taranto, sui 7-8 miliardi di economia nazionale. Per capirci, stiamo parlando di 12.000 dipendenti a Taranto, più 7.000 nell'indotto, quindi significa 20.000 famiglie lì. Stiamo parlando poi di altre 1.600 dipendenti a Genova, altri 800 a Novi Ligure e così via. E stiamo parlando di praticamente la fine del 20° gruppo siderurgico mondiale, cioè quello italiano, il gruppo Riva, con aggravamento quindi della bilancia dei pagamenti italiani, perché a quel punto un paese che fa manifattura e rifiuta di fare produzione di acciaio non può che vedere l'approvvigionamento in grandi gruppi esteri, quindi con un aggravamento della nostra bilancia negativa dei pagamenti, oltre al fatto che per un paese manifatturiero rinunciare ai settori energivori, cioè all'industria di base come l'acciaio, come il cemento, significa smantellare il piedistallo su cui poi c'è la parte della manifattura metallurgica. È inutile non vedere che dall'altra parte c'è un drammatico, stringente bilancio terribile per la salute, la sicurezza e l'ambiente, inutile non vedere che per tanti anni i poteri amministrativi delegati a sorvegliare sull'ambiente non hanno fatto il loro dovere, per contrasti di opinione sugli indirizzi al loro interno, perché hanno dato l'idea di poter essere corrivi, perché il privato poi ne ha approfittato, e su questo stanno indagando i magistrati. E a questo punto quindi bisogna esaminare queste ipotesi del decreto, in che cosa possa consistere, per tenere insieme questi pezzi che apparentemente vanno ognuno in una strada diversa. La difesa del lavoro, dell'economia, sembra indeclinabile, almeno a giudizio della magistratura, con il mantenimento di uno stabilimento aperto e al contempo con l'esecuzione di bonifiche che, per la loro estensione, per la loro intensità, per i capitali che richiedono, sono veramente immensi. Tanto che, questa è la mia opinione, poi mi taccio e presento gli ospiti, a mio giudizio in realtà non c'è la capienza da parte della famiglia Riva, che certo non la darà finché c'è altre componenti in custodia cautelare, ma al di là di questo bisogna chiedere di più al privato, molto di più, ma però non bastano neanche le risorse pubbliche fin qui annunciate, perché quasi due terzi erano già finanziate ma per il porto, quindi c'è poca roba aggiuntiva. La mia opinione è che bisogna fare di questa roba, con tutta la decisione e la sicurezza, e anche evitando tutti questi conflitti di interessi e conflitti di potere che sono ormai evidenti tra la magistratura, il potere esecutivo e così via, perché bisognerebbe portare questa vicenda in Europa senza grandi finanziamenti aggiuntivi europei, per fare di questa riconversione, ma mantenendo l'impianto aperto. Non c'è, secondo me, la possibilità di venirne a capo, se non con gravissimi danni per chi lavora l'economia pugliese nazionale, mentre invece questo dovrebbe essere, secondo me, il sentiero da perseguire, perché tanto in Germania quanto in Polonia, nei paesi che rappresentano ancora il cuore pulsante della manifattura e dell'industria pesante italiana, impianti come questi vicini ai centri urbani ci sono, come ci sono centrali a carbone senza grandi filtri di abbattimento vicini ai centri urbani, e quindi l'estensione di questo progetto di riconversione, secondo me, dovrebbe essere portato in Europa da un paese serio, da un paese capace di evitare questi continui cozzi contro iceberg. La nave italiana non è che un Titanic quotidiano, ripetuto in versione purtroppo senza titoli di coda, never ending story di come si fa un autoaffondamento. Allora, ora un po' di ospiti per capire qual è invece la loro opinione. Abbiamo con noi Mimmo Panarelli, che è segretario generale della FIM CISL di Taranto, che sta con noi i prossimi 10 minuti. Lo ringrazio, buongiorno Panarelli. Buongiorno a voi. Federico Pirro, che insegna storia dell'industria all'università a Bari e da una mano è componente del centro studi Confindustria Puglia. Buongiorno professor Pirro. Buongiorno direttore, grazie per l'invito. Allora Panarelli, allo stato attuale, ieri abbiamo seguito giorno per giorno cosa succedeva nello stabilimento col nostro Mariano Maugeri, sappiamo degli scioperi, voi che cosa sapete in realtà dalle autorità centrali e locali in vista di questo decreto? Per fare che, con che tempi, con che garanzie per voi e i lavoratori? Beh, diciamo che oggi è una giornata abbastanza tranquilla, ieri è stata una giornata molto molto movimentata per le iniziative che erano in piedi, ma soprattutto anche per quello che l'azienda il giorno prima aveva sferrato. L'abbiamo ritenuta come una provocazione il fatto di fermare di colpo durante il turno l'area a freddo, perché poteva tranquillamente, come dire, aspettare la fine del turno. Ciò non è avvenuto e quindi c'è stata una, come dire, una immediata reazione da parte dei lavoratori, che si è sfociata con lo sciopero della giornata di ieri. Oggi sono riprese le attività di lavoro, in particolar modo nell'area a caldo, l'area a freddo è sempre ferma, e ci aspettiamo questo incontro che domani dobbiamo fare a Roma. Noi dall'incontro romano ci aspettiamo faremo due richieste importanti, poi ce ne saranno qualche altra. Per noi, siccome che vogliamo intanto non perdere il sito produttivo a Taranto, e quindi per non perdere il sito produttivo a Taranto bisogna dare immediatezza all'applicazione e alle prescrizioni previste dall'AIA. Tutto questo sino ad oggi non si è fatto, io credo che a partire da dopodomani dovrebbe partire questa condizione, perché è proprio giusto, come dire, rivendicare uno stabilimento siderurgico che sia rispettoso di salute e ambiente. L'AIA va verso questo indirizzo, io credo che bisognerebbe mettere alla prova l'azienda per, come dire, mettere in condizione lo stabilimento di non nuocere più nella salute e nell'ambiente, a partire dai lavoratori e ai cittadini circostanti. Due, siccome che per arrivare a questa soluzione sicuramente avremo degli esuberi nella fase di ammodernamento e di messa a norma degli impianti, serve un documento, un provvedimento ad hoc da parte del governo per gestire questa fase di libertà, di messa in libertà dei lavoratori, e quindi, come dire, un provvedimento ad hoc che il governo dovrà darci. Queste sono le prime due condizioni forti che noi chiederemo domani. Poi vogliamo come dire, una persona esterna, quindi un commissario che deve essere il garante dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'AIA, perché non se ne può più, cioè non è possibile, come dire, tirare fuori i provvedimenti e poi sistematicamente, come dire, riscontrare che non tutto è andato come giusto che dovrebbe andare. Quindi serve una persona esterna che sia il garante di questa situazione. Queste sono le indicazioni che noi chiederemo. Come posso chiederle anche rispetto alla temperatura dei rapporti tra diversi sindacati e lavoratori interni allo stabilimento? Siamo in una fase in cui, diciamo, c'è una convergenza e insieme si delineano, si decidono le iniziative, ci sono sensibilità che restano diverse, c'è uno scollamento con la parte dei lavoratori che c'è anche con il sindacato. Se dovesse dirci a queste domande come risponde? Tranquillamente non ci sono problemi tra Finfiamme e Wilm, su questo obiettivo, cioè, ci sono divisioni su altre questioni, ma sul discorso della tenuta dello stabilimento, sul problema ambientale non c'è alcuna differenza tra Finfiamme e Wilm, quindi c'è un'unità assoluta. Poi ci sta un gruppo di lavoratori che sta perorando cause, che prima ha parlato di chiusura dello stabilimento all'inizio del mese di luglio, adesso ha modificato la sua posizione, ma sono delle frange irrisorie, piccolissime, che stanno contestando tutti quanti, a partire dalla politica, dal sindacato, dall'azienda, perché il loro obiettivo è comunque la contestazione a prescindere. Voglio dire, ma stiamo parlando di piccole frange che non rappresentano la maggioranza dei lavoratori, perché la maggioranza dei lavoratori sta con noi perché avverte fortemente la messa in discussione del proprio posto di lavoro e quindi sta rivendicando insieme a noi queste condizioni di avere uno stabilimento sano sul discorso ambientale e di salute. Secondo lei c'è un modo di mettere insieme le tesi della magistratura tarantina rispetto alla possibilità dell'esecutivo di riprendere in mano il bandolo della matassa, assecondando le richieste che avanzate anche voi? Credo proprio di sì, io l'abbiamo detto in continuo in questi 3-4 mesi, che l'azienda non ha fatto tutto e che debba, come dire, fare quello che è giusto che debba fare, mi sembra proprio giusto. La procura ha fatto bene a smuovere le coscienze sul problema, come dire, che si era determinato sul territorio e tra i lavoratori all'interno della fabbrica, quindi ha fatto benissimo. Oggi però serve il buon senso, guai a immaginare una Taranto senza Ilva, perché una Taranto senza Ilva sarebbe la morte per il territorio, sarebbe la disperazione per oltre 20.000 famiglie, oltre a tutto quello che determinerebbe all'interno del paese. Se si verrà fuori questo buonsenso da parte di tutti quanti, io credo che ci sono ancora le condizioni per riprendere e rimettere nella giusta direttiva questo stabilimento. Poi se qualcuno ha sbagliato nel percorso e quindi non ha fatto le cose che avrebbe dovuto fare, beh, è proprio giusto che si assumesse le responsabilità e risponderà nelle sedi giudiziarie. Grazie infinite a Mimmo Panarelli, segretario generale della FIM CISL di Taranto. Professor Pirro, che cosa rischia davvero non solo la città ma la Puglia e l'Italia se questo braccio di ferro, del quale bisogna prendere atto, governo e magistratura non sono riusciti a venire a capo, cioè vanno avanti su binari paralleli e in mezzo ovviamente c'è da una parte il lavoro, dall'altra la sicurezza e l'ambiente, ma qual è il rischio vero se dovessimo farne un quadro a chi ci ascolta? Da un punto di vista strettamente macroeconomico, la Puglia rischia, ove lo stabilimento fosse dismesso, 7-8 punti del suo PIL. Quello nazionale, una stima prudenziale tra lo 0,5 e un punto intero di PIL. Abbiamo a Taranto, lo sappiamo, 11.611 lavoratori diretti, che vorrei ricordare sono per oltre l'80% da 20 a 39 anni di età, perché in questo grande stabilimento siderurgico, che non si dimentichi, è anche la più grande fabbrica manifatturiera d'Italia, superando anche la Fiat Mirafiori a Torino, in questo stabilimento sono entrati negli ultimi anni circa 8.000 nuovi dipendenti che hanno dovuto rimpiazzare una classe operaia che era andata in pensione avendone maturati i requisiti, ma anche avendo dovuto rimpiazzare lavoratori che avevano avuto abbuoni contributivi per l'esposizione all'amianto. Quindi oggi l'età media dei dipendenti dell'Ilva è di 38 anni. Queste 11.611 persone direttamente impiegate nello stabilimento hanno a carico poco più di 15.000 persone che godono degli assegni familiari. Quindi solo tra lavoratori diretti e familiari a carico abbiamo un corpo complessivo di quasi 27.000 persone. Poi abbiamo 2.500 lavoratori, quota minima, perché lei sa meglio di me che ci sono le manutenzioni ordinarie nello stabilimento, ma poi ci sono le manutenzioni straordinarie, i rifacimenti di alti forni, le innovazioni tecnologiche che comportano impiego di manodopera indiretta in quote superiori ai 2.500 addetti minimi che assicurano, diciamo, il funzionamento ordinario dello stabilimento, in aggiunta ovviamente agli addetti diretti. Poi abbiamo tutto l'indotto di secondo e terzo livello, la movimentazione portuale, la movimentazione ferroviaria, la movimentazione su gomma del prodotto tarantino, che è fatta da tanti padroncini. L'Ilva utilizza prevalentemente come mezzo di trasporto le navi, soprattutto, poi il trasporto su gomma e infine i trasporti ferroviari. Poi abbiamo le banche, tutto il sistema bancario, non solo nazionale ma anche ovviamente locale, che lavora in buona misura, non esclusivamente per l'Ilva. Abbiamo i rapporti con l'Università di Bari, il Politecnico sempre di Bari, l'Università di Lecce. Abbiamo la capacità di spesa. Lo scorso anno l'Ilva ha corrisposto direttamente ai suoi dipendenti al libro lavoro 504 milioni di euro tra salario diretto, trattamento di fine rapporto e oneri sociali. Quindi l'effetto moltiplicativo di questa spesa, che riguarda prevalentemente lavoratori di Taranto città e di Taranto provincia, lei pensi che 1.000 lavoratori vengono anche dalla provincia di Brindisi, comunque oltre 10.000 sono tra Taranto e provincia. Il potere di spesa di questo forte nucleo di lavoratori dipendenti, se fosse ridotto, avrebbe effetti moltiplicativi, ovviamente ridotti, sul contesto economico locale. Quindi, diciamo, avremmo, a parte gli effetti indotti a Genova, a Novi Ligure, a Racconigi, a Torino e in altre città del nord, 14 centri di lavorazione a valle e di assistenza che lavorano, sempre del gruppo Ilva, che lavorano per lo stabilimento di Taranto, che è il perno di un metadistretto siderurgico nazionale. In questi giorni, con il sequestro del materiale già prodotto sui piazzali, intanto si sta producendo un danno per coloro che l'hanno acquistato, che ovviamente potranno chiedere penali all'Ilva per mancata consegna del materiale, di cui probabilmente dovranno approvvigionarsi presso altri fornitori, con ritardi a loro volta, a valle appunto, di completamento di beni finiti. Penso a tutto il settore dell'auto, elettrodomestici ed altri comparti che si approvvigionano da Taranto. Quindi già questo sta producendo dei danni, rischio di mancate commesse. L'azienda stava chiudendo due importanti commesse di tubi con la Libia e con l'Iraq, che avrebbero dato respiro al tubificio, i cui addetti erano andati in cassa integrazione dal 19 novembre. Speriamo che questi contratti si possano chiudere. Quindi, diciamo, l'impatto macroeconomico locale e nazionale è un impatto forte, che impone a tutti i soggetti in campo, ovviamente nel pieno rispetto delle rispettive competenze, di trovare un punto di equilibrio. La nuova AIA, che non dimentichiamo, lei giustamente lo ha detto, è solo la prima parte della nuova autorizzazione integrata ambientale, perché la competente commissione del Ministero sta adesso avviando i lavori per le autorizzazioni riguardanti le emissioni nei corpi idrici e nel sottosuolo, ma la sola AIA per le emissioni in atmosfera implicherebbe investimenti da parte del gruppo, come lo stesso gruppo dichiara, esigendo però la piena disponibilità degli impianti, circa 3 miliardi e mezzo di investimenti nei prossimi 3 anni. Ha capienza il gruppo per queste risorse? Chi ne veda i bilanci si accorge che probabilmente, come lei ha detto, questa capienza è problematica, diciamo, perché il settore siderurgico è un settore che ha picchi di profitti in anni di grande domanda e crolli con perdite devastanti in anni, come è successo tra il 2008 e il 2009, crolli di domanda e di produzione e quindi di ricavi e di utili in anni immediatamente successivi. Poi c'è un incremento del costo delle materie prime, che lei pensi nel giro di 2 anni ha avuto un incremento del 156%, dal 2009 al 2011 c'è stato un incremento del 156% delle materie prime, quindi e non sempre questi aumenti sono trasferibili sul incrementi di prezzi alla vendita del prodotto finito. E quindi diventano compressioni di margine che ulteriormente rendono problematico, come ovvio la cosa. Ecco, io ringrazio e spero che tutti voi in ascolto abbiate riflettuto sulle cifre, sull'estensione delle implicazioni che dallo stabilimento Taranto, tutti quelli del gruppo, tutto l'indotto, che cosa vuol dire l'acciaio per l'economia nazionale, incarnano questa vicenda e ne rappresentano le conseguenze drammatiche. Però il fatto che i poteri pubblici italiani, da una parte l'esecutivo, dall'altra i poteri locali e la magistratura, non riescano a trovare una maniera sinergica per tenere in considerazione tutti gli aspetti di questa vicenda. Molti ascoltatori ci dicono, adesso andiamo in pubblicità, state solo strollinando la faccenda dei Riva che devono tenere aperto. No. Ripeto, vi ho detto, non c'è capienza probabile nel solo bilancio dell'azienda. Uno, due, non sottovaluto cosa vuol dire le indagini parallele su il privato che pagava i poteri pubblici corrotti. Tra l'altro, vendola se l'è cavata così a buon mercato, perché se fosse un altro, se fosse stato un governatore di un altro colore politico, se la caverebbe così a buon mercato sui giornali, secondo voi? Non lo so, però vorrei capire di più anche sotto questo profilo. Poi dite, invitate i sindacati gialli. No, dopo la pausa c'è il collega della CGI e della FIOM, quindi state attenti, noi non siamo al servizio dei privati, anche se difendiamo il diritto di fare impresa, di fare lavoro, capito? Non è una, come la radio di Confindustria, cioè, Giannino, allora stai difendendo il diritto alla morte, al contrario. Non mi piace l'idea che però l'impianto che per decenni, in cui ha perso valore, nelle mani dello Stato ladro, così è stato disegnato, cos'è? Non faceva emissioni secondo voi allora? Allora affrontiamo i problemi nella logica complessiva, invece come al solito di dividere in tribù, chi starebbe per la morte dei lavoratori e chi invece pensa di difenderne che cosa? Il diritto alla vita senza lavoro? Ma è questo un paese, un modo di ragionare? Io dico di no. E con noi ora collegato oltre sempre al professor Pirro, un secondo che mi è saltato il quadro della messa in onda, eccoci qua, è con noi il segretario della FIOM CGL di Taranto, Donato Stefanelli, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Allora, prima abbiamo sentito il collega della CISL, però io ho fatto anche una domanda su come i diversi sindacati stanno vivendo questa vicenda, perché abbiamo letto e sappiamo oggettivamente che le sensibilità sono diverse rispetto ai temi in ballo, salute da una parte e sicurezza, ampiezza delle risorse necessarie agli interventi di bonifica rispetto al fatto che su questo il governo fino a questo momento non è riuscito a prendere in mano il bandolo della matassa con l'AIA e dall'altra parte l'esigenza di tenere in piedi l'impianto, il lavoro, l'occupazione. Dal vostro punto di vista della FIOM, che avete sempre detto noi non ce la sentiamo di polemizzare con la magistratura su questo, quindi la pensiamo diversamente dagli altri, oggi dopo questi nuovi sequestri e la messa in libertà ieri dei lavoratori della produzione a freddo, come stanno le cose? C'è la possibilità di un raggio di luce e in che direzione? Cosa vi aspettate, Stefanelli? Intanto non abbiamo cambiato idea sulla magistratura, che svolge il suo lavoro, lo deve fare nel rispetto delle sue prerogative. La fermata degli impianti dell'area a freddo non li ha determinati la magistratura, il sequestro non è degli impianti, il sequestro è dei prodotti finiti e dei semi lavorati che sono stati prodotti in questi mesi, in questa fase successiva al sequestro dell'area a caldo di luglio scorso. Ma non è questo, diciamo, il punto su cui voglio soffermarmi. Sì, anche perché è inutile che io le chieda di commentare, è necessario, non è necessario, i provvedimenti della magistratura è inutile mettersi a commentarli. Infatti non li commento, li rispetto, punto e basta. In Italia ognuno svolge il proprio ruolo. per quel che ci compete, intanto bisogna sempre lavorare, ed è un lavoro immane, per tenere insieme il binomio lavoro e salute, lavoro e sicurezza, anche perché non c'è alternativa a questo. Chi pensa che si possa salvare il lavoro senza tutelare la salute o viceversa è qualcuno che o sbaglia in buona fede o vuole marciarci, e in questa realtà tanta gente ci marcia su questa contrapposizione che ha molto di costruito in questa città, in questo territorio. Il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che l'Ilva deve decidersi a fare quello che sinora non ha fatto, e che, messa di fronte anche alle sue responsabilità dalla stessa magistratura, ma che per quanto ci riguarda sono ben precedenti al 26 di luglio, l'Ilva deve presentare il piano industriale. Piano industriale per noi significa non soltanto applicazione dell'AIA. L'AIA noi la consideriamo un punto di partenza, va applicata, ci sono prescrizioni importanti che ridurrebbero, se applicate davvero, l'impatto ambientale e quindi l'impatto sul territorio, sull'ambiente, sulla salute. Si potrebbe, come dire, aprire una pagina nuova in questo territorio, ma piano industriale significa ben altro, significa rilancio tecnologico, significa nuove strategie industriali, porsi il problema se limitarsi a questi prodotti o guardare ad altri prodotti nell'ambito della siderurgia. In definitiva l'Ilva ha bisogno di recuperare quel ritardo industriale strategico che la vede in grande affanno nella concorrenza internazionale e nel rapporto con i competitor europei innanzitutto. L'Ilva sta perdendo quote di mercato a vantaggio degli altri, e questo è successo non dal 26 di luglio in avanti. Le premesse le ha messe la stessa Ilva negli anni precedenti. In questi ultimi anni l'azienda non ha innovato, non ha fatto investimenti. E gli investimenti, cioè il piano finanziario, sono parte integrante del piano industriale che noi rivendichiamo. Quindi noi con queste richieste andiamo domani all'incontro a Palazzo Chigi, che riteniamo debba essere un tavolo permanente e non occasione una tantum. Non andiamo per conoscere le idee di questo o quel ministro. Noi vogliamo che il problema Ilva rimanga sul tavolo e venga monitorato in tutto il suo percorso. Cioè quello deve essere uno dei tavoli negoziali fra sindacato, governo e azienda medesima. Benissimo, vediamo, naturalmente noi continueremo a monitorare anche domani le proposte che verranno davvero dal governo. Ieri, lo sapete, il Presidente del Consiglio si è recato dal Capo dello Stato, che aveva chiesto immediatamente al governo un canale riservato di aggiornamento sulla situazione di Taranto. Vedremo che cosa salterà fuori. Io ringrazio anche il segretario della FIOM CGIL di Taranto. Ora andiamo alle informazioni sulla circolazione stradale, che però hanno un secondo di ritardo in questo caso. E allora vediamo invece di iniziare con qualche telefonata di ascoltatore, cominciando con Rinaldo da Como. Rinaldo, in linea? Buongiorno Giannino, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Guardi, vorrei essere un attimo un po' una voce fuori dal coro. Sì. Tanto per cambiare, siamo di fronte alla solita italianata, gente che si è riempita le tasche alla faccia di tutti, inquinando, avvelenando. Adesso siamo noi cittadini, perché il governo significa noi cittadini, a dover intervenire per l'ennesima volta, come Carbosulcis, come l'Alcoa, quant'altro, a dover mettere mano al portafoglio, perché costoro avranno l'1% di quello che necessiterà per mettere a posto tutta questa situazione di inquinamento. Beh, l'1% no. L'1% no, insomma, non esageriamo. Abbia pazienza, vada al suo punto, perché se inizia a dire poco di più, i numeri io li conosco dell'azienda, no, non poco di ma più. Allora non è che sia così imbecille da non capire, però mi perdoni. Ma no. Allora forse è meglio che lo Stato diventi uno Stato che sappia fare l'imprenditore, li butta fuori tutti, diventa proprietario di questi carrozzoni schifosi che mangiano denaro personale a tutti i cittadini italiani e che a un certo punto facciano pagare a costoro quel che deve essere pagato. Rinaldo, perché però siamo tutti, Rinaldo, tutti marci, dovete tirare fuori i soldi perché la gente, Rinaldo, ha pagato. Rinaldo, sta roba l'abbiamo privatizzata perché lo Stato ne aveva abbattuto il valore a meno di zero, non era capace di gestirla e l'ha resa lo Stato questo mostro di inquinamento, e voi mi dite che bisogna ridarla allo Stato di cui avete questo culto idolatrico? Ma com'è possibile con lo Stato che vi deruba tutti i giorni e voi vi mettete in ginocchio a dire torna, torna ladro, spogliami, stuprami, prendimi tutto? Anch'io, come ovvio, ho paradossalmente alzato la voce a Rinaldo perché ho rispetto di quello che dici e uso paradossalmente la tesi, che è molto forte, tra i nostri ascoltatori ci sono molti messaggi che dicono rinazionalizziamo. Ok, basta che voi ricordiate perché è nelle mani dei privati, cioè perché lo Stato aveva fallito la capacità di fare margini, profitto, strategie e aveva reso l'impianto quello che è. Poi sono arrivati i privati che devono, come è giusto, investire, non hanno abbastanza investito nella messa in sicurezza, nella bonifica, eccetera, eccetera, e però ne hanno ridato a questo impianto la possibilità di fare margini utili e di stare nel mercato. I fatti su questi. Naturalmente hanno molte colpe, poi si hanno corrotto, come pare, anche per tenersi buoni le verifiche ambientali, hanno colpe penali che pagheranno, e infatti i provvedimenti cautelari della magistratura ci sono. Ora il punto però è quello di vedere come si fa a contemporare la necessità, secondo me, di mantenere un gruppo che faccia acciaio in Italia, ne faccia milioni di tonnellate come questo, che continui a fare margini utili, con una necessità di investimenti che sono di scala così grande che molto probabilmente, oltre a tutto il necessario da chiedere al privato proprietario, ci vuole una bella fetta pubblica e ci vuole, secondo me, anche una bella fetta europea. This is the end, my only friend. Allora, eccoci qua, the end, forse the end anche per Taranto. Sentiamo un paio di ascoltatori. Ancora Francesco, Francesco chiama da Taranto, prego Francesco. Buongiorno Giannino, premetto che sottoscrivo in pieno la sua premessa, senza l'Europa noi da questa situazione non usciamo fuori. Volevo confutare la tesi del professor Pirro, non so se è ancora in collegamento. È ancora sì in collegamento. Il caso ha voluto che proprio in questi giorni il Sole 24 Ore pubblicasse la graduatoria di vivibilità delle città italiane e Taranto risulta all'ultimo posto. Quindi tutto questo benessere economico prodotto dalla grande industria qui in questo territorio non c'è. Io vorrei farvi la storia: quando 60 anni fa si decise di impiantare il centro siderurgico a Taranto, furono tutti d'accordo. La Chiesa, il giornale locale, la DC, i comunisti, il presidente Napolitano. Quello ha significato invece la nostra morte anche dal punto di vista economico, non parlo dal punto di vista ambientale, che qui tutte le famiglie hanno un morto di cancro, compreso mia madre, di cui ricorre domani l'anniversario, che è morta di una forma rara di tumore senza aver mai messo piede in quella fabbrica. Faccio proprio una questione economica. Noi risultiamo comunque, nonostante la presenza dell'Ilva da 50 anni, comunque risultiamo agli ultimi posti nella graduatoria di vivibilità, compreso gli indici di carattere strettamente economico. Quindi questo benessere portato dalla grande fabbrica qui non c'è. Comunque abbiamo altissimi tassi di disoccupazione, comunque tutte le altre attività economiche sono sparite, perché quello ha significato la morte del commercio, del turismo, di tutte le altre attività, dell'agricoltura, della pesca. Ma Francesco, se posso chiedere, di fronte a questo, lei direbbe, aspetti un secondo, fermi, fermi un secondo, Francesco, di fronte a questo lei cosa dice? Meglio chiudere? Non ci sarei, mi dovete spiegare perché comunque, nonostante la presenza dell'Ilva, siamo all'ultimo posto, prenda la classifica. Va bene Francesco, adesso io ho capito, la domanda l'ha già fatta, sto dicendo, meglio chiudere? No, io sono per la sua tesi, come Ho capito, quindi l'Europa, perfetto, ok, no, ma era solo per capire. Adesso sentiamo ancora Umberto da Milano. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì. Guardi, senta, io sono abbastanza, come dire, in linea, allineato con l'ascoltatore, il primo che ha chiamato, nel senso che qui ci sono... Ci pensi lo Stato. Però, no. Rispetto alle responsabilità, nel senso che qui c'è una famiglia che non ha investito, che si è arricchita, che non ha garantito la tutela del territorio. Quando voi dite, perdoni Umberto, quando dice non ha investito, a cosa non fa? Ha investito nella sostenibilità dell'impresa. Ha investito, però le cifre degli investimenti, degli accordi, delle indicazioni non ha, ha corrotto politici, quindi di conseguenza qui innanzitutto non dobbiamo, come dire, subentrare noi come Stato assolutamente, ma i costi sono da collocare e da imputare tutti alla famiglia Riva. La famiglia Riva deve subire un sequestro di tutti i beni. La famiglia Riva deve pagare questi lavoratori che stanno a casa. Dopodiché gli sequestriamo anche l'azienda, la affidiamo a degli imprenditori, qui non lo Stato quindi, a degli imprenditori seri, perché ce ne sono tantissimi in Italia, ok? Ne abbiamo visto uno ieri sera a Porta a Porta, ecco. E questi imprenditori, senza pagare un euro per rilevare l'azienda, però pagheranno per metterla in sicurezza. Vabbè, Umberto, facciamo strame del codice civile, aboliamo i diritti e facciamo procedure sanculotte, perché questa può sembrare giustizia sostanziale. Hai descritto uno scenario in cui si espropria qualcuno, gli si leva tutti i beni personali, non si distinguono beni personali e beni d'azienda, ovviamente qui il codice civile ce lo dimentichiamo. Dopodiché cosa facciamo? Un bel sequestro giudiziario, chiamiamo un privato che dice tu non ci mette i soldi e contemporaneamente poi la fa andare avanti. E a che titolo, scusa? E in vista di quale beneficio? Ragazzi, non si può ragionare come se vivessimo nel mondo della giustizia elementare. Viviamo in un mondo in cui c'è una giustizia un po' complessa. Allora, Pirro, in 10 secondi riesci a dare una risposta sul perché siamo Taranto in basso nelle classifiche comunque? Intanto l'azienda ha investito 4 miliardi e mezzo appunto, dal 95 sino alla metà di quest'anno, per ammodernare gli impianti, di cui 1,2 miliardi solo per interventi di ecosostenibilità. Insufficienti? Forse, però sta di fatto che l'azienda ha investito le risorse di cui disponeva, perché quello è un settore escluso dagli incentivi comunitari. In secondo luogo vorrei ricordare che a Taranto non c'è solo l'Ilva, c'è una grande raffineria dell'Eni, c'è la Cementir, a Grottaglie c'è la Lenia, c'è l'arsenale della Marina Militare, c'è una grande azienda che produce aerogeneratori e della Vestas, c'è il gruppo Marcegaglia, ci sono tutte le aziende dell'indotto, non solo dell'Ilva ma anche di altri comparti, e si parla di indici di vivibilità, ma il reddito pro capite di Taranto è al primo posto fra tutte le città pugliesi, quindi queste cose non le dobbiamo dimenticare. E poi comunque gli indici di cui parla l'amico di Taranto riguardano Taranto e provincia, dove peraltro c'è ancora un'agricoltura forte in provincia, non lo dimentichiamo. Da un punto di vista turistico c'è tutta la zona ad ovest di Taranto, i grandi villaggi turistici, ma anche Taranto. Se vediamo i dati ufficiali della ex azienda provinciale di turismo, adesso non è Pirro, ok, io la devo fermare perché mancano 4 secondi, 3, 2, 1, quindi nel salutare dell'appuntamento domani, come vedrete le voci sono ancora purtroppo molto molto molto molto divergenti.